Le strane cose si scoprono a volte sui giornali. Domenica scorsa, per esempio, ho appreso da Repubblica che d'ora in poi le iscrizioni al liceo classico Berchet si potranno lasciare in eredità. Lo si apprende da un titolo a tre colonne in taglio basso in prima pagina locale che assicura un posto al Berchet in eredità. L'Occhiello specifica un po' vagamente che, incombendo quest'anno troppe iscrizioni, l'istituto favorirà i parenti degli ex studenti. Beh, capirete anche voi che la notizia mi ha interessato. Al Berchet sono andato anch'io, anni fa, e fa piacere scoprire così di punto in bianco di avere qualcosa da lasciare in eredità. Ai miei congiunti non potrò forse assicurare beni immobili o conti in banca cospicui, ma un posto garantito al liceo almeno sì. È già qualcosa. Spiace vedere un istituto caratterizzato da un'antica tradizione democratica adottare delle procedure dal vago sentore feudale, ma insomma sappiamo che così va il mondo. Poi naturalmente uno legge l'articolo e capisce che non è vero niente. Tutto si riduce al fatto che tra i criteri stabiliti dal consiglio d'istituto per scremare le domande di iscrizione, oltre a quelli relativi al merito scolastico, alle scelte della lingua straniera, alla residenza in zona, rientra la possibilità di vantare un fratello già iscritto al Berchet o che lo sia stato negli ultimi 10 anni. Il preside, che sembra persona ragionevole, ben diverso da certi autocrati pseudo-manageriali che hanno occupato negli anni il suo posto, ha spiegato ai giornali che non c'è in quella delibera alcuna volontà di preselezionare il corpo studentesco, ma che si tratta di una pura ragione di spazio. Capirete, le quarte ginnasio sono già 10, tutti gli aspiranti nel vecchio edificio di via Commenda proprio non ci starebbero. Niente da eccepire dunque. Ma un po' fa pensare questa aspirazione diffusa ad andare al Berchet. I miei genitori all'epoca lo avevano scelto per il motivo semplicissimo che era il classico più vicino a casa, l'unico raggiungibile a piedi. E in seguito, dopo l'esplosione della scolarità negli anni 60, quel criterio era stato in un certo modo ufficializzato, con la suddivisione della città in rigidi bacini di utenza. Adesso evidentemente le cose sono cambiate. E anche se mi pare ovvio che in molti ambiscano a una scuola in cui oltre a me ha studiato, come apprendo sempre da Repubblica, Luchino Visconti, e senza minimamente volerne negare i meriti, sempre sostenuto a spada tratta al Berchet nell'annosa diatriba che lo oppone al Parini, con cui pure ho avuto a che fare, insomma, le motivazioni di tanto appeal mi sembrano richiedere qualche spiegazione. Certo, riesco a comprendere benissimo i motivi che spingono tanta brava gente a voler indirizzare la propria al liceo classico, perché quel tipo di istituto, per quanto arcaico sia il suo piano di studi e vaga la relativa vocazione professionale, gode di un prestigio sociale inossidabile e di una certa polverosa funzionalità didattica. In fondo, se lo studio del latino non insegna certo a ragionare più di quello di qualsiasi lingua altra, resta vero che quell'erede legittimo del Real Gymnasium tedesco rappresenta comunque il modello da cui sono stati derivati tutti gli altri. E visto che la derivazione si è provveduto in genere con il metodo caro a Procuste del taglia qui aggiungi là, è presumibile che l'originale funzioni meglio delle imitazioni. Ma ho abbastanza pratica di insegnamento, vi assicuro, per sapere che non esistono nell'ambito di uno stesso ordine scuole veramente migliori. Anche nell'istituto più rinomato è facilissimo finire in una classe che per un motivo o per l'altro fa schifo, alla mercé di professori assolutamente deplorevoli, e naturalmente viceversa, ma chissà perché è più raro. Le pratiche su cui ci si accanisce da decenni per impostare la didattica a livello di istituto, socializzandone le caratteristiche e la qualità, restano empiriche e più delle volte sono puramente formali. La vera motivazione naturalmente sta altrove. Così, ai miei tempi, il Berchet, un istituto nel contesto d'allora non proprio centrale e frequentato com'era fra gli altri da studenti del Corvetto, del Vicentino, di Rogoredo, persino di Lodi e di Melegnano, era considerato quasi automaticamente di serie B rispetto a quelli cui affluivano i nobili rampolli di via Fatebene Fratelli, di via Cappuccio, di via del Gesù. Era un giudizio che con il merito didattico non aveva ovviamente a che fare, ma reggeva benissimo. Certi miei quasi coetanei che hanno fatto il Parini e magari poi si sono distinti nel 68 sono convinti ancora oggi che in via della commenda finissero esclusivamente quanti non riuscivano a soddisfare gli standard intellettuali richiesti in via Goito. Ma oggi naturalmente la tipologia urbana delle classi e delle vie è cambiata e nulla vieta che anche il mio vecchio liceo sia considerato una scuola bene e quindi per antonomasia una buona scuola. E confesso che un po' mi dispiace. Il fatto è che il modello di una scuola organizzata a più livelli qualitativi non appartiene alla tradizione dell'istruzione pubblica, come l'ho conosciuta io e suppongo voi. È tipica anzi di un sistema educativo fondato sulla scuola privata. Anche lì naturalmente il prestigio sociale non coincide di necessità con l'eccellenza didattica, ma visto che la scelta del livello si paga in contanti, il problema è irrilevante. Nella società del denaro è noto, tutto vale per quello che costa e nulla costa per quello che vale. Ed è a quel mondo, al mondo delle public school britanniche, dei college americani, che appartiene la prassi delle iscrizioni ereditarie, dei posti riservati per generazioni ai membri delle famiglie importanti. Ma appunto, della tradizione dell'istruzione pubblica, dell'ideale di un'educazione al più alto livello possibile, gratuita e aperta a tutti, oggi in Italia non interessa niente a nessuno. È roba vecchia, è residuo obsoleto di un progetto sociale e di un quadro valori che a destra e a sinistra si lavora alacremente a smantellare. E così, in attesa che la Moratti o chi per lei risolva il problema stabilendo che per accedere agli istituti più noti bisogna sborsare una retta adeguata, e vedrete che non ci vorrà tanto, e così al Berchè possono divertirsi facendo finta di essere a Eton.